chissà se stia facendo buona giornata. Cos'hai detto? Dormi, dormi, Giuseppe, fregate, non ti preoccupare. Ah, così è. Va bene, va bene. Nulla, stavo guardando un po' la televisione. Adesso ci prepariamo, ci usciamo, mia moglie faccio un giro. E se piove ci portiamo l'ombrello, cosa? Non fa niente. No, il centro, non va lontano da qua, il centro. Ci vuole la macchina per me. Io sono molto pigro a camminare a piedi. No, ma non va la Sassari. Ora fammi un giro a Porottolo, c'è da qualche parte. Capito? Lascia vediamo. E potrei tagliare da lì, ma non l'ho mai fatto. È troppo lontano, troppo distante. Sì, no, via Roma è lunga. Da qua a via Roma è lunga lo stesso. No, no, no. C'è la macchina, Giuseppe. Le macchine perché le hanno fatte? Le hanno fatte per usarle. Una volta in via Roma dove c'era di tutto. Bisogna vedere in che anno, perché io qua sono arrivato nell'83, a Sassari, quindi non lo so. Non lo so, Giuseppe, non sono molto girelloni io, non pensare perché abito a Sassari, conosco tutte le zone. Via Roma ci passo saltuariamente, ma sempre in macchina, a piedi poche volte. No, non lo so dove. Sicuramente tu ti ricordi meglio di me, ma io ti ripeto, a piedi cammino poco. E vabbè, sarà qualche luce, ma io non lo conosco. Chi c'era? Ah, boh, non so mai di chi stai parlando. Quella c'è sempre. Quella c'è sempre. Capito? Biosai c'è sempre a fare. Ma guarda, io non ci sono mai andato lì. Ma dicono che è la migliore. Boh, non lo so. Non ho capito. No, io non ne ho mai comprato, non ci sono mai andato. Non lo so, bisogna verificare lì, anche perché il posto per la macchina è un casino, quindi o ci vai organizzato. Io per mangiare la fai, l'ho sempre mangiata a casa, la pizza pure, ma la fai l'ho sempre mangiata a casa. E a Sassari pizza io non ne ho mai mangiato lo stesso, sempre fuori Sassari, non conosco pizzerie buone che fanno la pizza buona a Sassari. E certo che sì, ok. Aspetta un attimo Giuseppe, riprendo subito, è arrivata mia figlia. Alle 6:15. Ma nemmeno, non credo nemmeno nell'Epidimi. Per me c'è Gio Maria e Graziano, che non arriva peraltro. Vabbè, dai, io sto cucinando qualcosa veloce qua. Ci facciamo il shake e bon. Metti acqua bollente, aspetti 3 minuti, poi lo scoli ed è fatto. Anzi, devo farlo adesso. A dopo, ciao. Chiamato Antalì? No, non ero io, ero in bagno, proprio ero in bagno sulla tazza quando ho sentito chiamare. E oggi c'è un motorio di un PMR nelle pizzine, una cosa mai sentita. Tu sei Antonello? Chi è? Oh, via. Mamma mia, ogni volta aspetta al gabinetto, è tipo la passione di Cristo, sudo sangue. Eia, comunque ribadisco, quelle 3 antennine, 2 da 14 con attacchi diversi, 2 e 1 da 19 centimetri, sono state ordinate, purtroppo dalla Cina ci metteranno dai 20 giorni ai 2 mesi per arrivare. Una media è un mese e mezzo. La media, ho notato. E vabbè, ce le godremo l'anno prossimo praticamente, o a Natale o l'anno prossimo. Poi bisogna vedere anche se funzionano e se risuonano. No, che risuonino, almeno sono antenne discrete e funzionanti, no, per dove siamo noi. Ma non ha senso, non sta lì. Già la base magnetica grande si nota, quelle hanno basettine da 3 cm. Pensa, hanno la stessa basetta magnetica che ho, quella da 50 cm, no? Io ci sono andato con quella da 50, con quella basetta piccola, fino agli 100 km orari, più o meno 100, insomma, su superstrada, e non si è mai staccata, perché è talmente sottile che l'aria gli passa attraverso, capito? Forse è una cosa grossa, larga, ma è sottile. Quindi non ti preoccupare per quello. Ma tanto tu cosa fai? Il Gran Premio in strada, no? Già guidi tranquillo. E allora non ce n'è problema. Io l'ho detto, ho collaudato fino ai 100 orari. Ho detto, vediamo se la trovo dopo. Tanto anche se si stacca. Anche se si stacca non te la perdi. Rimane appesa allo sportello o al vetro, insomma dipende se la fai passare dal vetro o dallo sportello. Io la faccio passare dallo sportello perché c'è una gomma, proprio nell'angolo c'è una guarnizione in gomma che fa passare i cavi anche l'RG58, e se lo prendi a mano scorre, capito? Non è una cosa che ti pincia il cavo e te lo rovina. L'importante è non sbattere troppo la porta forte, perché sai, lungo andare, mentre l'RG174, quello ci balla pure, è così sottile. Ricordati che comunque, insomma, quelle antennine è come avere, cioè quelle veicolari lì, è come avere l'antennino. Come avere l'antennino messo esterno, perché 14 cm più la bobina saranno un quarto d'onda effettivi, un quarto d'onda, è come avere l'antennino però messo fuori, ed è già una gran cosa, perché messo dentro l'abitacolo perde molto. Poi te l'ho detto, ce l'ho da 50 cm fini, da 50 cm grosse, c'ho la, come si chiama quella d'acciaio, è simile alla tua, amico, NR770H della Diamond. Poi ho una CR8009 non originale di marca cinese, 1,20 m, grossa, pare una spada. E poi quella massima, la SG, come si chiama, SG7009 o imitazione Diamond della Oxin, mi pare, o giù di lì, 1,53 m di antenna, grossa, mi grossa, però quella ha più larghezza di banda, proprio perché è grossa, c'ha una resa notevole, sono 3x5 ottavi, pensa. E già. Ma guarda, quando una volta che tu hai lo scanner in macchina, no? Quella serve per lo scanner. Ogni tanto ti fermi in un punto buono, te l'ho detto, no? E colleghi, molto bene, ma nemmeno Claudio c'è oggi, cosa eccezionale. Ah, la tua moglie è passata a te l'influenza, così è. Ma spero non sia successo niente, no? Oh. No, non per il cane, dico in frequenza, dico non è successo niente, no? Io ero fino a ieri sotto le grinfie di mia zia, no, sotto le grinfie, ci sta aiutando a mettere a posto, a buttare roba, giustamente, un po' anche, insomma, vabbè, ci sta aiutando, dai. E quindi ci mancherebbe che me ne uscissi o parlassi al baracchino mentre lei lavora, no, non funziona così. L'ho anche detto, ieri, quando è che c'era? Ieri mi pare, ho sentito Claudio nel PD, ho detto saluta tutti, sono in ostaggio, salutami tutti. Eia, eia, eia. poi domani mattina deve fare roba col fratello, forse verrà di sera, di pomeriggio. C'ho la mattina libera, devo fare pulizia personale, bene. Tutto bene. Da quando sono mancato io, da quando ha cominciato a venire mia zia, per fare roba non è entrato nessuno. No, ma io ieri ho sentito gente, per breve tempo, quando mi riposavo un po' qua, ho acceso il baracchino, ho sentito, Laura non te lo so dire, ho sentito Claudio parlando, mi pare. Sì, mi sembrava lui, poi però accendendo un'ora dopo non c'era nessuno, alle 7 non c'era nessuno proprio. E vabbè, io problemi non me ne faccio, sono tutta la mattina, tutto il giorno che mi riposo, perché il mio fisico non è abituato insomma a fare sempre in movimento. Abbiamo mangiato, ci siamo fatti quel sai che bonna, lo conosci? Praticamente apri questo contenitore, no, a forma di bicchiere, fai bollire l'acqua, un pentolino d'acqua, metti l'acqua dentro questo bicchiere dove c'è la roba da mangiare fino a un certo livello, lo tappi col tappo che è forato e aspetti 3 minuti. Dopo 3 minuti scoli l'acqua attraverso i fori del tappo, no? Apri il tappo, metti la salsina, lo giri bene e mangi. E con 1,30 euro, uno e cosa, c'è un pranzo velocissimo, velocissimo. E c'è gusto manzo, gusto pollo, anche se manzo ce ne sarà in polvere, ha sopra l'aroma del manzo. Più verdurine, no? Sono come dei spaghettini cinesi, noodles li chiamano, no? Cioè mangio pollo e classico che sarebbe vegetale, però veramente buon, mamma se l'ha sbranato, tipica dieta italiana, pasta asciutta e carne, e come faceva nonno la domenica. E poi vabbè, come secondo ci pigliamo un po' di frutta sciroppata, perché c'era frutta tutta messa male, l'abbiamo buttata. Bene, sì, ma ananas allo sciroppo ci mangiamo fra poco. E tutto lì, manco pomponi ho sentito in PMR, niente. Oggi troppo fuoco c'è. Caspita, l'uva nel filo verde, mamma mia, forte, eh? Ti ubriaca, bastano 3-4 acini e ti ubriaca, anche a meno. Chi è che faceva le cose l'uva sotto spirito? Aspetta, aveva un nome particolare, la ditta che lo faceva, tipo l'uva sotto spirito, non mi ricordo il nome, non ti viene? Toschi mi pare, Toschi faceva uva sotto spirito, può essere Toschi con la T di tango. Magari non esiste nemmeno più, come io ti sto parlando di 30 anni fa, anche di più, quella sì non esiste nemmeno più come ditta, e poi può darsi che stia sbagliando io, comunque me lo ricordo quelle cose là, le vendevano già pronte anche, buone mi, buone veramente sotto spirito, sì, soprattutto le amarene che sono belle grosse, belle rosse. Vabbè, tra le due sotto spirito preferisco l'uva, però, perché l'avevo gustata personalmente, la ciliegia non ce la vedo sotto spirito, boh. Magari sto sbagliando io. Sì, poi lo cerco comunque su internet, devo vedere se era Toschi. Si dava delle belle bottiglie con forme belle, no? Con l'uva dentro del sottospirito, ma era una bontà, noi la gustavamo da quando ci avevamo quell'amica in campagna, faceva le feste in campagna, non le feste, le cene, i pranzi, bello era, bello, poi la campagna, io praticamente da bambino ci ho sempre vissuto in campagna, all'aria aperta. Trovavo di tutto, amanti di religiose, bruchi, colorati, quelli col corno, sì, bello era bella la natura. Invece i bambini di adesso, le visti, già da 3 anni vogliono 3, 4, 5 anni il videogame, capito? Quelli manco un filo d'erba hanno visto, secondo me. Sì. Poi questi PlayStation, mi sono tremendi. Giochi anche violenti fanno, boh. Capito? Stanno chiusi in casa, invece io sono stato contento di essere vissuto all'aria aperta. Mi piaceva molto. Ho visto la tartaruga semi nascosta nella, e quanti insetti che vedevo, uccellini, insomma, bestie di tutti i tipi, da, per non parlare di Florina, semi, quando andavamo a vendemmiare, quando avevamo la vigna 40 anni fa, io avevo 4-5 anni, che mi portavano anche sopra il carretto, no, di legno, carretto che era, o sopra l'asinello mi facevano sedere. L'importante è non mettermi sotto l'asinello perché è pericoloso. Ah, figlio di Gio Pierum, Marco. Eia, eia. Sì, ma anch'io lo sai che da Auchan, no? Dov'era? Pare da Auchan, quello dico che lo nego, ma mi pare Auchan. Era appena uscito Windows 10, mi ricordo, appena uscito, o il 10 o il 7 o cos'era, no, appena uscito. Beh, c'era un gruppo di bambini che stava già aprendo finestre, cartelle, impostazioni, sapevano già fare tutto, appena uscito il sistema operativo, ero a bocca aperta. Guarda, i bambini, se vuoi farli diventare bravi in qualcosa, devi abituarli da piccolo, che sia computer, che sia musica, sempre che siano portati, Perché magari uno per la musica può suonare chitarra o strumenti, per esempio il pianoforte, ci sono dei bambini che suonano il pianoforte da Dio, io li considero esseri superiori, quindi, capito? Perché io non so suonare nessuno strumento. Guarda, mamma mia, se trovi la vocazione giusta di tuo figlio, per dire, e gliela fai fare da piccolo, poi diventa un mostro da grande, un mostro, un super esperto. E te l'ho detto, questi ragazzini avevano avuto 7-8 anni, stavano già prendendo le impostazioni, cambiando i colori dello schermo, studiavo, a bocca aperta ero, guarda. Ma Vittorio chi? No, non ce l'ho presente. Ma CB, non Vittorio Volpe, no. Beati loro, ah, beati loro. La suona la chitarra mi sarebbe piaciuto. Ah. E poi la chitarra elettrica, entrare in un gruppo heavy metal. Ai miei tempi, magari. Beati loro, Natali, beati loro, io in confronto sono la schiappa, ma te la scordava lui, cazzo gli aveva spaccato in testa. Ma vedi così in basso, Natali? Oh, non ho guardato manco lo smitter, sono al buio io, ciao Claudio. E se non guardi, ciao, buonasera. Controlla, Santiago 5 sta arrivando qua. 9.30 è. 9.30, se Santiago 5 è qua. Oh, Natali, qua eri senza toccare nulla, eri 9.25 esattamente, poi ti sei anche alzato. Claudio, occhio che non sia roba la tua. Tua sorella, se sei 9.35 tu. Oh, cosa vuoi ti dica? Calato è. Bubu. Calato giuro, se il tuo segnale è il tuo, è 9.30, che problemi posso avere io? Se 9.30 non picchia 35 tu, che problemi posso avere io? Natali, comunque stai strappando, non toccare nulla, lascialo come era prima. Sì, qua sei 9.25, ma ci avrà 1-2 watt, mi Claudio. Troppo basso, sì, però avrei 2 watt, mi dispiace per te. Sì, Santiago 5. E sarebbe più forte Giuseppe D'Alghero, Ligio. No, c'è qualcosa che non va. Ah, 5 watt è Santiago 8. 5 volte mi arrivano per 20 a manata lì. No, c'è qualcosa che non va a lì. A 5 volte, se mi arrivi con 2 volte e mezzo, 9 e 5. Scusami, a 5 volte mi arrivi 9 e 20. Sei Santiago 8. Metti la correttore, no? A quanto sono le stazionarie? Non so perché da Marco arrivi 9.25 cose Santiago 8 e sto ricevendo col K. Il problema è che io non agio. Uno rapporto uno stazionario, il segnale di Marco è perfetto, il suo. Non so. Io sto stazionario per aspettare questo. Voi non stai uscendo bene, come devi uscire, non lo so. Infatti hai toccato qualcosa, Natalia, sì. Così. Ancora l'ha fatto. Eri perfetto prima. Claudio, ma non è che c'hai qualche appena di attenuazione, magari io ancora arrivo a 9.30 e lui più basso, no? Controlla. Marco, io sono molto attento a queste cose, a te quanto non ne uso io. Non uso niente. Tu sei perfetto, il tuo segnale, il mio è uguale, capito? La potenza è sempre 10 watt, sto andando con 440. C'è qualcosa lui che non va, capito? C'è qualcosa che non va. Guarda un po'. Non so che sei, 9.30. Tanto, ma tu ma che barattino vai, Marco? 9.30, 9.25. Tanto io sto ricevendo col K, Santiago 8 qua. Santiago 8, il segnale di Rattalino con 2 watt e mezzo deve essere 9 più 10. Quando mette a 5 watt 9.20, quando mette al massimo c'è il tuo segnale. C'è qualcosa che non va. Non quel barattino che ricevendo, 9.25, 9.30. Santiago 8 qua arriva, c'è qualcosa che non va, punto. Vabbè, ma lui da me è un tiro di palla, tu sei molto più lontano. Guarda che chi è in macchina dove lui arriva fortissimo lo stesso. Possiamo vedere se è lo smitter che oggi sta segnando di più, aspetta, lo prendo a cazzotti. No, ma infatti non fai testo tu non fai proprio testo, col baracchino è a fianco a lui. Chi fa testo sono io che sono lontano. C'è qualcosa che non va, il segnale non è il tuo, punto e basta. Fai qualcosa perché se Santiago 8 non è il tuo segnale. Non lo so, ma non è il tuo segnale. Io non ho problemi di ricezione. Lo faccia Giuseppe, stava arrivando a Santiago 9, quindi sempre il solito segnale. Il 9 di Marco è 9.30, un picchia 32-35, perciò è un problema tuo, non lo so cosa è successo. Aspetta, non ti immagini che accadono l'antenna, cosa vi giocui? Può darci, no, scusate un attimo, però adesso vedo che Claudio è più forte del normale. È come se fosse leggermente fuori scala rispetto al segnale massimo. E quindi allora mi falsa anche Natalino, vedi? Era l'unico sul canale, quindi non avevo altri riscontri. E cosa faccio? Cambio baracchino. Per vedere quanto arriva, potrei anche farlo. Ma non c'è bisogno, Marco, però sto dando io riferimento. C'è qualcosa che non va da Natalino. Ho qualche spezzone, qualcosa, non lo so. Il tuo segnale è perfetto, puoi lasciare perdere. Io ti stia arrivando leggermente più forte perché l'altro giorno stavo usando l'altra radio e il segnale era diverso. Adesso sto usando il K, c'ho 30 watt modulati. Quindi può darsi sia anche quello, ma non è un problema, né mio né tuo, il problema è Natalino che gli altri giorni con la stessa potenza mi arriva 9 più 5, adesso è Santiago 8. Ecco. Avanti. Buonasera a tutti, ciao Claudio, ciao Natalino, ciao Marco, non ho fatto ascolto, ho sentito solo voi tre, non so se ci sia qualche donato, comunque vi rilancio e mi dite voi. Grazie, ti rilancio Natalino, dici quanto lo stai ricevendo. Tu che sei dietro di me, avanti Natalino per Roberto. Natalino. Cosa mi chiami? Chiedo pulizia in mano. Ecco. ecco, adesso sei tu, 9 più 10, vedi che c'avevi qualche PL maggiore. 9.15 era Natalino qua. Anche da me, picchi 9.15, poco fa era Santiago 8, vedi che c'era qualche PL maggiore allora. Ecco, 5 errate. Oh, Vito, sei tornato normale, quasi 9 più 20. Vito, cos'era? Mi ha tolto il carretto e l'ho cambiato con un altro. Un carretto messo male c'era. Infatti adesso non ho stazionaria. Poco fa c'era lo stazionario, c'è il sacco trattore, capito? E cosa è proprio da gomma così? Bruci la radio, non ti detenuta. Con tutti i cevaracchini che va, arrivi tutti 9.30. Ciao Robert, buonasera, avanti. Sì, ciao Fra, e me, cosa siete combinando? Nulla, non stavo combinando niente. Stavo guardando un po' di TV e basta. E adesso mi sono entrato un po' in radio a fare due chiacchiere e dopo ci andiamo a cenare. Avanti Marco. Dai, cosa vedi da sì? Se non entro io, altri 10 minuti e brucia lo baracchino natalino. Sì, ho toccato una levetta su e giù perché prima avevo fatto il controllo delle stazionarie e si era falciata la ricezione in effetti. Adesso con 5 watt arriva a 9.30 Natalino circa, no, fai 9.25 con 5 watt. E adesso sono giusti però. Infatti tu sei tornato al segnale normale e vabbè. Però Natalino, tu quante stazionarie hai in antenna? Senza collatore, dimmi una cosa, se sono 1 e 2 è inutile che metti l'accollatore per 1 e 2, metti l'antenna diretta. Come faccio a mettere l'antenna diretta? Ci sono i filtri qua, c'è tutto. Senza, adesso non ne ho stazionati, capito? Adesso vai bene, adesso sì, 9 più 20, spaccato, con picchi positivi, poco fa di Santiago 8, capito? Ecco perché te l'ho detto, controlla. Quindi può essere che avevi qualche spettro in corto, qualche pille in corto. Avanti Robert. No, ma che microfono stai usando? MC60, perché? C'è, ho alzato la radio, fortissimo sì. Metto il 430 con l'MC60. Fortissima la radio, ok. Rispetto a loro se cacchio il doppio di rimodulazione, cioè. Cosa volevo dire? È la strutturata della Juve, vista la cosa. Chiarità. E continui a fare il turnover lui che lo passano, lo passa anche il Crotone, lo passa. Continua a fare il turnover. Ma è una partita fuori casa con la Sampdoria, che ha vinto anche domenica. Fuori casa, tu ti permetti di fare il turnover, lo capisco. Che c'è la Champion martedì, ti capisco, ma no, ma i buoni bonichi sei qua dai Galafferi. Ma hai visto come è entrato Dybala subito in tesa con Higuain, Daniel Costa? Ma, cioè, ma questo uomo si rende conto che la Juventus quest'anno sta facendo una figura di merda per colpa sua, con questi cambi, ma come non ha portato a De Sciglio? Oh, ha detto nell'intervista che hanno fatto il miglior primo tempo di tutta la stagione. Ma chi, la Juve? L'ha detto Allegri, abbiamo fatto il miglior primo tempo di tutta la stagione. Lascia perdere. Intanto io sono rimasto su 2-0, avevo già cambiato, ho messo il canale 5 a mia moglie, io non sono uscito. Poi ho visto che ha perso 3-2, si è sfidato all'ultimo momento, ma mia figlia mi ha detto che la stava guardando e che è cambiata notevolmente la partita all'ingresso di Dybala e Daniel Costa. Non si fanno questi errori. La Juve questa non vince niente, né campionato, deve stare attenta che non salti la Champions, perché se passa al terzo posto deve fare i preliminari. E il Barcellona in casa, a Torino, il Barcellona ne fa 4 martedì, e sono 4 e 4 giù. Vabbè, però diciamo ha fatto il risultato con lo Sporting Lisbona fuori casa, quello è già un punto importante che ha fatto. Ok, dai, io sono fiducioso, non sono juventino, però mi dispiace. C'è da dire che Allegri c'ha una concezione del turnover che possiamo accettarlo o no, io non posso criticarlo perché bisogna vedere come sono i giocatori, lui li conosce, li vede negli allenamenti. È giusto far giocare anche a quell'altro portiere che non è male, come ti dice, ma va, me ne ammetto. Il gol non è colpa sua, assolutamente, non c'è niente da dire. Solo che se ne hanno mangiato tutti. Ma come non aveva Buffon in porta, se no non aveva abbigliato Zinco. Capito? Perché mi ha tolto, mi ha parato parecchio. Vabbè, a prescindere dalla sfortuna, la Juve quest'anno non vince niente, te lo dico, la Juventino, nulla lì, capito? Il Napoli se ne va nuovamente a 4-3-7, se ne va a 7 punti la prossima settimana, già 7 punti dalla Juventus. Abbiate che era un punto, e invece si è fatta battere dalla Sampdoria. Rita Ferrero, Fendi Lugigno, che presidente di merda, un presidente così maleducato, non l'ho mai visto io, per carità di Dio. Avanti Marco. Ehi, ciao Roberto, di nuovo. Sì, è vero, lo Smith è mio, perché ho fatto l'errore di toccare una cosa, le CVR calme. Poi l'ho rimesso normale, mi ha falciato i segnali. Infatti tu eri fuori scala, ma ne sono d'accordo, ma io non stavo guardando lo smitter. Ero messo, non faccia lo smitter, ero di lato, non lo stavo guardando. Se no qualcosa magari mi sarebbe, vabbè, è capitato, dai. No, dicevo, Natalia, a parte i filtri, metti il baracchino in filtri e poi l'antenna, non emette l'accordatore, tanto per 1 e 2 o quanto ci avevi a furti pinni. No, non ce n'è accordatore, capito, non ce n'è adesso accordatore. Eia, tu diciamo usi il wattmetro per regolarti coi watt, così è? E per controllarmi l'andamento della storia, per controllarmi il watt, perché io li controllo da lì. Ehi, va bene, dai che vado a mangiare la frutta, dai, le prendete. Ok, Natalia, ma non mi ascolti? Sì, che ti ascolto, ciao Robè, ben sentito. Ah, infatti ho detto busta, non risponde Natalia, forse non mi sente. Se ti arrivo 9.15 o quante che ti arrivo, non ti sento secondo te. Adesso sei 9.20 con i picchi positivi. Sì, cazzo, 5 watt sono anche brutti, perché disturbo, capito? Ti sei di nuovo riabbassato comunque. Hai sempre detto il fatto. Hai tranquillo adesso non ce n'è. Ma ti sei aiutato con qualcosa? No, non c'ho niente, no. Devo tenermi basso di watt, capito? Ehi, allora qualche momento scendi a 9.10, poi sali a 9.20 abbondante, boh, vabbè dai, lo sai tu, non ti dico niente. Ma cos'è un 44 quello che ti ha usato? E chi io? Ehi, lui. Baracchinetto, Va bene, ok. Cosa volevo dire? Non c'è nessun altro su questo canale? No, negativo, io, Claudio, Marco. Comunque la bomba con 4.30 a trame, sempre quello famoso. Questo è sempre quello. E l'altro giorno non l'hai sentito con il Mesh 85 come rullava. Adesso sono passato commutato al 4.40, non c'è differenza, Robè, non c'è differenza. Va bene, vanno bene tutte e due, capito? Vanno tutte e due il 60. Settimana scorsa stavo usando quello 85 di Sandro, quello l'ho restituito. E niente, capito? No, va bene, va bene. E beh, questo era stato tutto revisionato, tutto messo a posto, capito? E ce li ho tutte e due, 4.30 e 4.40, ma in proporzione il 4.30 rimane molto più silenzioso del 4.40, però come trasmissione sono tutte e due uguali. Dimmi una cosa, ma lo stai vedendo quello CLMC85? Tu stai perdendo colpi. Il giorno che ero in officina, che Danilo stava mettendo il frigo, già da giurito, lo vuoi un MC85, tu cosa mi hai detto? Ma tu lo volevi a scambio, mi hai detto un 60 e te l'ho 85, e tu hai detto no, non te ne do perché non ne ho altri. Stavamo parlando di stessa scambio, che tu hai fatto uno scambio, non so come, io anch'io l'ho fatto uno scambio con l'85 e il 60, ok, con Valerio di Alghero, però quello era in vendita, se non vuoi me lo faccio portare e te lo faccio dare. Quanto lo sta vendendo? 70 euro lo sta vendendo, nuovo. Boom, lo so, 70, vabbè, è il suo prezzo, però adesso dai, ho altre spese, dai, se c'è ancora più avanti ne parliamo, mi faccio regola Natale, dai. Ehi, roba nuovo, l'ho usato io, era una cannonata, lo stavo usando la settimana scorsa, però ho deciso di non mettere niente in mezzo, capito, quindi la roba degli altri l'ho restituita, gli ho venduto anche un bel po' di roba, però la roba degli altri non voglio che poi succeda qualcosa, era colpa la mia, quindi ho restituito tutto. C'ho solo il baracchino di Massimiliano, che anche quello è in vendita, se sentite qualcuno un Superstar 3009 Colt, che è una bomba, una radio eccezionale, veramente molto bella. No, no, l'ho sentito, una bella radio, tra l'altro. E dimmi un po', ma i microfoni parliamo di quelli più economici, non 60, 85, di baracchini, cosa ti è rimasto da tavolo, per curiosità? Io ho adesso il 60, sto usando l'SM20 per quanto riguarda la ICO, per quanto riguarda la IAESO, l'MD1B8, basta. Poi ho l'MB più 4, l'ho regalato Giuseppe di Alghero, e ho l'MB più 5, e i due Turner più 2 più 3, non basta. Quello è per il DAC, per lo standard e per la linea Alicraft. I microfoni che sono, insomma, non di marca Kenwood-Yaesu ICOM. Poi, per la Kenwood uso i microfoni MC60, per l'ICOM l'SM20, per lo Yaesu uso l'MD1B8. E boh, e basta, ce n'è anche troppo per i miei gusti, capito? Va bene, avanti Natali, riprendi. Adesso ne dicendo dall'armadio qui i baracchini, cazzo, ti faccio la fotografia e mi rivendo tutti. Ehi, tenete anche l'armadio, dai. Io ho venuto una cassa da poco perché ne avevo tre. Ne sono tenuto due, già sono troppi, infatti ne metterò un altro in vendita, me ne tengo uno solo, DHF, DHF. Poi per quanto riguarda la 27 me tengo il 430, 440 e basta. Il resto faccio fuori tutto Natale, intanto non ne uso, non mi interessa, è roba messa lì, spenta, ogni tanto l'accendo, le due li usano due anni che non li uso, due anni che li accendo in ascolto e basta. Non vanno in trasmissione per niente, alla fine cosa ne vai? Quindi alla prima occasione farò un mercatino unico, dove metterò la roba che non uso, roba buona, fiammante, efficiente, garantita, faccio fuori tutto, ne tengo una sola di radio, capito? E basta, va bene. E poi roba e niente, a tempo buono, vediamo. Dovrò smontare tutte le antenne su, lascio solo la mantova e basta, conservo tutto, metto tutto dentro le scatole, metto in vendita anche tutte le direttive, il rotore, eccetera eccetera. Oh, se parti, ti devo chiedere una cosa, una proposta per quell'MC85, non te lo dico per radio, te lo dico per coso, domani dopo ti chiamo, dai, così. Chi ce l'ha, Sandro, mi avete? Meno il mio, la proposta la devi fare a lui. La proposta di farla a lui, io, a me mi ha detto di vendere, l'80 l'ho venduto a Capri, c'aveva anche un bellissimo MC80, nuovo, senza neanche mai essere usato, si è messo il collettore e Capri lo sta usando col 440, c'aveva un 60 che ce l'ho io, allora per me il 60 me lo sono preso io, l'85 ce l'ha ancora lui e l'80 gliel'ho venduto. Cosa ti sto dicendo? Sto dicendo qualcos'altro. Lo specchietto sinistro della macchina tua, l'ho visto ieri, sono andato a quel specie di cosa che vende roba usata che c'è vicino a Predanieta, dove c'è a Predanieta, diciamo Santa Barbara, dove c'è di fronte la concessionaria Ford, come si chiama, adesso non ricordo neanche come si chiama, un mercatino, c'è uno specchietto sinistro per la macchina tua, per la 600, dello stesso colore qua, è buono, nel senso non è rotto, 10 euro, già verniciato per quello della macchina tua. E noi ci abbiamo il destro però già verniciato, no? Mi pare. No, lo so, non me lo ricordo, tu non hai il sinistro, buono è il tuo. Il sinistro è quello che era rotto, abbiamo messo il sinistro nuovo noi, però non verniciato. No, che ce n'è uno di colore uguale identico alla macchina tua, infatti ho pensato, a te, l'ho controllato, l'ho preso in mano, 10 euro, si può prendere 10 euro, vabbè, se ce l'hai tutti dimmi. E io intanto l'ho preso, ma sono tutti due nuovi, no? Se era da prendere lo prendevi e l'avremmo cazzato, quello sinistro, e io c'ho il destro, capito? Che avremmo messo di nuovo tutti e due colorati, ma non è una fotti nulla, vabbè, abbiamo messo tutti e due nuovi, cosa? Già va bene così lo stesso, anche se non sono verniciati, intanto adesso mi serve, ma appena non mi serve te la lascio e la completiamo con la macchina, dobbiamo metterle anche per ultimi nuovi, già lo sai. Eia, aspetta, ti chiamo un attimino, Cla. Eia, riprendi Marco. Eccomi, ci ho mangiato la frutta. Che silenziosa la sua domenica, c'era un silenzio di tomba qua. Che strada che dietro. Proprio era surreale quasi il clima, fatto buio presto. Bene, posso ritenermi quasi soddisfatto, dai. Natali, riprendi. La mia signora mi sta mettendo di con le uve. Deia. Chi è il greco? Avanti. Mamma mia. Natalino, l'ascolti Capri 2? No, ragazzi. Oh, boh. Manco fosse un'antenna da macchina quella, caspita, è pur sempre la 5 ottavi anche se passa, boh. Capri, non ti ascolta, dai. Non ti ascolta, Natalino. Io adesso vado a farne un pediluvio, ne ho bisogno. Acqua tiepida, eccetera. Così mi rilascio un po', dai. Quindi devo lasciare il baracchino, mio malgrado. Cappa, dai. Natalie, a dopo, più tardi. Ciao Capri, a dopo, più tardi. Ciao Marco, ciao. Ecco, sta uscendo malissimo. È tutto strappato, sì. Oh, già, mi dispiace dirtelo, ma non è pulita la modulazione. Mattino si lampi ancora, che c'è 757. Ancora non si lega un paddolo, ma lo attacchi in 440, Ma proprio hai messo lo sciù, ma sciù proprio, sciù. Su, Bugattiru, io te lo posso anche procurare l'MD-1B8, capito? Te lo posso anche procurare, ma quella radio, ti ho già detto, da qua l'hai comprata, che è una M, tu le puoi mettere qualsiasi tipo di microfono, non sarà mai manco a paragone col 440, ma con nessuno dei Kenwood, manco a paragone, no, la modulazione da schifo, Gianni, ma te lo dico senza offesa, da schifo, capito? Tu esci bene con 440 e boh, anche con i baracchini, meglio di quello esci, non basta appena appena la radio, e sarà con il contro quello che vuoi, però la modulazione è cupa, distorta, è molto metallica, è brutta Gianni, non è bella, quando una modulazione è bella, io lo dico, lo sai che sono amante delle belle modulazioni, può essere anche un baracchino vintage di 40 anni fa, però quando la modulazione è bella, io ero tutta la settimana che stavo modulando con un baracchino di 20 anni fa e con l'MB-5, la modulazione era bellissima, bella, vero o no Robert? Certo, infatti io dico già, scusa se mi intrometto perché io non mi piace criticare, se vuoi ascoltare il mio consiglio, avere un bel abbinamento, il 60 col 440, è inutile andare su delle cose che hanno provato tantissime persone prima di te e dopo di te e non c'è niente da fare, ci vuole una cosa diversa, ce l'hai, per cui usa quello là e basta. Sì, già, ma attaccalo però e lasciali là, quello mettitelo nella vetrinetta, te lo guardi, bellissimo, ma usane uno, dammi retta, ma te lo dico per esperienza. Io la serie Iaesu 757, 757 GX e 757 GX2 li ho avuti tutte e tre, ho provato qualsiasi tipo di microfono, qualsiasi tipo di microfono, non gli ho tolto piedi, la modulazione non mi piaceva e quindi fuori dalle balle non ne ho voluto più sapere di Iaesu, capito? Un attimo Marco. Marco cosa è andato a fare Natali? Il pediluvio, ha detto che si doveva fare il pediluvio. Ma come non si arriva a vedere il culo? Ma dimmi una cosa, Cla, ma il livello microfonico di questo 430 è molto più forte del 440? Ma in linea di massima sono uguali, hanno tutte e due il potenziometro, non è che cambia molto, però il 430... io te lo dico già negli anni che furono perché lo comprai prima del 440 da Mario Nottari, avevo proprio avuto modo di fare le comparazioni perché poi mi avevo tenuto sia il 430, quando è uscito il 440 avevo comprato anche il 440 e diciamo che gli anni massimi sono le due radio che ho tenuto sempre di più, soprattutto il 430. Sembra che spinga un po' di più, sembra che spinga, ora non so, lo dico da profano proprio, se il Mickey Gay che spinge molto di più o il microprocessore che è leggermente più spinto, non lo so, però a parità di potenziometro, allo stesso livello, a 1 e a 1, a 1,5, a 1,5, spinge di più il 430. Mi sembra che a me è molto più forte la radio. Non lo so, vediamo Capri se ha cambiato. Capri, vai, arrivo, attacca panda. E devo attaccare MD1B8 della Iaeso, no? Che è simile all'MC60 come estetica, non vuole mettere sul 757 GX2, ma la modulazione non cambia, rimane sempre molto più bassa, molto più senza nessuna tonalità. È una radio buca, io non l'ho mai curata la Iaeso. Il sistema se non va bene per qua, va bene in FM, l'onda laterale e boom. Sì, in FM, in banda laterale, basta, però la diversità della chemo, che vanno bene sia in AM, in FM, in banda laterale. La Iaeso in AM, perché non ha curato mai nessuna radio, mai. Rendo conto che la Iaeso in AM è processore, la radio Iaeso è processore, forse le ultime, non lo so, ma le altre radio processore in AM non ne hanno, quindi, mentre la Kenwood c'ha il processore anche in AM ed è molto importante, perché metti anche un microfono normale col processore e stai spingendo lo stesso. Ehi, avanti. Vabbè, una Formula 1, cioè la differenza tu la conosci tra una Formula 1 e una 500 vintage. Ecco, tu hai fatto questo salto, che alla fine ci andiamo a Genova, non è che alla fine di Genova andi uscendo. Bisogna vedere quando è, se sono disponibile, capito? Io un anno ci sono andato e avevo preso un paio di giorni, adesso vediamo, perché io a Natale molto probabilmente andrò fuori, cioè a cavallo di Natale me ne vado fuori quest'anno, è il primo anno che sono libero Gianni, quindi vediamo. Se mia moglie decide magari di andare dopo Natale, può darsi pure che ci vengo. SSB funziona benino quella radio, dico benino, non bene, benino, ma è a livello di baracchino, non è che puoi parlare in banda amatoriale con un 757 GX2, non ha filtri, non ha niente, capito? È una HF così, di tanto per usarla, ma non ha niente a che fare. In SSB in FM funziona benino quella radio, perlomeno, va bene, dai, ma in AM non ha manco processore, non ha niente, la radio è gracchiante, bruttissima, guarda Robè come sta uscendo con l'MC80 adesso. Sì, sì, è cambiato totalmente, ma me ne sono accorto, l'avevo anche detto l'altro giorno, non è adatta a quella radio, non la conosco, nel senso non l'ho mai usata, però me ne accorgo quando ci parli, sembra che stai strozzando una modulazione, sembra che sei saturo, cuffa, no, non fa assolutamente. Santiago c'è 9+15, la radio va bene, è chiara, comprensibilissima, niente da dire. Questa qual è? Quella che ti ho dato io o quella che hai comprato tu, il 440? Va bene, vedi, va benissimo, perfetta, l'MC80 sì, risponde molto bene, bellissima radio già. Ripeto, quella là, mettitela in vetrina, e te lasci in vetrina, ce l'hai e basta, ma non la usare già, usa questa, dammi retta, o questa o l'altra del 440, però usa il 440, che sei completamente diverso, proprio bella modulazione, bel segnale, va benissimo tutto, non c'è problema, vai Natali. Io addirittura non l'ho ascoltato con quel cavolo di radio che stava usando poco fa, almeno adesso qualcosa l'ha sento, anche se arrivo a basso, ma quello dipende dall'antenna mia che è bassa. Ma come ne siete tutti qua? No, ma come ne sei solo tu qua? Non ti dica compagnia. Vero. Sì, è vero, sì. E buonasera a tutti, Buonasera anche a te, ciao Luca. Beh, ciao, chi c'è? Marco, se non sbaglio, ciao Natalino, o Roberto, ciao Roberto, Claudio, e Capri 2, avanti Roberto. Ciao Luca, ben sentito, c'è anche Claudio. Eia, ci sono, ci sono. Ciao Luca, buonasera, ben ascoltato. Ci dovrebbe essere anche Marco, vediamo un po' se riprende, se non riprendi tu Capri. Marco? Ciao Marco, è andato a prendere, non so, a mangiare qualcosa. Eia, ciao Capri, dai, salutoni. No, stavo facendo una prova con un computer, dai. Sono qua in ascolto perché c'è un computer che mi hanno andato a riparare, l'ho sistemato, però c'è qualcosa che non va ancora. Dai, rimango in ascolto, tra un po' riprendo. Riprendi tu Capri. Cosa Capri? Allora stai comprando una radio seria, vai tranquillo, la migliore in assoluto delle radio vintage della Kenwood 430, non ci sono comparazioni e non c'è nessuno che mi può dimostrare il contrario, perché io è anni che ce l'ho e le comparazioni le ho già fatte col 440, molto più silenziosa, molto più selettiva, è più meccanica, crea meno problemi del 440, e c'è una bella forza. Una bella forza, si sia in trasmissione che in ricezione, quindi quella è una bella radio che puoi comprare, ma non ti buttare né sulla Yaesu e né su Icom, perché sono radio a livello amatoriale, punto e basta, quindi praticamente da usare in FM e in SSB, ma in AM non servono a nulla, ci butti via i quattrini, siccome tu li usi in AM, capito? Quindi te lo dico per esperienza già vissuta. Tutto qua, vai Robert. Sì, per come sei attaccato lo confermo io, la modulazione è molto, molto buona. Capi, tu c'hai anche l'MC60, mi hai detto? No, volevo sentire il confronto, l'80 con il 50, vedere che differenza c'è. L'MC80 funziona bene come le apparecchiature che è un buon microfono. Si assomiglia molto al, poi lui c'ha la voce da orco molto grossa, capito? Quindi spinge bene con l'80. Adesso senti la differenza del 60. Cacchio, voce da orco, questa non l'avevo ancora sentita. Sì, capo c'ha la voce da orco. E che la voce da susare i bizzini, come anche a cosa c'aveva allora la voce da orco, te lo ricordi a cosa? Ma a Napoli, Mario Marco. Allora, si assomiglia molto a quella di Mario, infatti. Da orco nel senso che è molto grosso. Vai Capri, facci sentire la differenza, io muovi di Barò, sempre cambiando il treno di chi li vai. Impiegare di più di manca, c'è male mannolini a un bambino, giù mai. Prova di nuovo, allora se la stessa radio, l'MC80 ha un peluzzino più spinge di più, sto guardando qua l'indicatore, è un peluzzino più forte, però questa è più corposa come modulazione rispetto all'altra. Ma perché c'è la regolazione dell'MC80 qua? Sì, c'è il trimerino come l'SM20, uguale, dietro c'è il trimerino. Col cacciavite induttivo si solleva e si abbassa la preamplificazione, mentre quella del 60 invece non ha la regolazione, c'ha o alto o basso, capito? Sì, c'ha due tipi di impedenza, sì. Ma esteticamente sono simili l'80 con il 60? Sono uguali, solo che l'80 è leggermente più piccolo come piantone, perché l'85 c'ha l'equalizzatore parametrico. Ma l'80 è più recente rispetto al 60 come microfono? No, l'80 è uscito prima, poi hanno fatto l'85. L'85 era diciamo il top della Kenwood. Diciamo che non è andato così molto lontano, è un microfono che funziona benino, il problema sai qual è di quel microfono? Che è molto utile come l'SM8 e l'SM10, c'hanno praticamente tre posizioni di uscita, quindi tu con lo stesso microfono cosa puoi usare? Una radio Kenwood, una radio Icom, una radio Yaesu, e cambi, c'ha tre tastini, posizione 1, posizione 2, posizione 3, quindi con un unico microfono puoi usare anche o tre radio Kenwood, ok, oppure tre radio diverse con connettore diverso. E ha come la Dunis 908 che ho io, che c'hai tre uscite e ti puoi commutare tre radio diverse, no, diciamo quello può essere interessante a chi usa tre radio contemporaneamente, dai. Ok, a me l'85 quando c'era la maestrale mi piaceva tantissimo, per la sua modulazione andava benissimo, poi non so, confrontato tra 60 e l'85 con un'altra voce, non so se con la voce tua, ma forse me l'hai fatto sentire l'85. La paura, guardi, l'ho restituito l'altro giorno, se non te l'avrei fatto sentire, la paura. Col 430 lo dovevo tenere proprio a uno scarso, col 440 a 1, invece così ce li ho tutte e due a 1,5 a 1,5 con l'MC60, perché ne ho due MC60, uno sul 30 e uno sul 40, capito? Quindi non sto a cambiare, l'antenna è la stessa, è comodo con la T230 della Kenwood sempre, antenna 1, antenna 2, e quindi faccio in fretta a commutare e a cambiare, capito? E via. Che è arrivato qua? Natalino, ci sei ancora? Natalino, già mangiando stai. Luca, Ariello, non so cosa sta facendo, ha detto qualcosa però non ho capito. No, niente, sto comprando un computer, adesso sono qua. Non lo so, cioè funziona bene, però si spegne, non so se dipende da un problema di computer o un problema di alimentatore. Ma sto controllando. Luca, tu invece sei sempre un baracchino con lo solito che hai sempre avuto. Sì. Questo era, ho detto, dei baracchini probabilmente è una delle migliori modulazioni in assoluto con quel microfono. Ne ho altro, un microfono normale, però non è manco di uso, viene male, facciamo questo qua, va più che bene. Ho quel cavolo d'alimentatore da riparare, devo cambiare i condensatori, perché quando tu lo regoli va bene, dopo un po' se ne scende, non va bene, casa. Adesso vediamo un po' se riesco a cambiarmi io con il Saturno. Ma di un alimentatore del baracchino sta parlando? Sì, yeah. Alimentatore quello alto Claudio, quello con la 25 ampere. No, io sto sempre quello dell'accetto, Guido lo puoi tenere attaccato 24 ore su 24, quello c'ha. E ma così muovi lo smitter, adesso sta assorbendo 7 ampere, non so 6 ampere, ma 60 ampere da continui quello lì, non ha né raffreddamento né niente, cioè senza ventole né nulla, è sovradimensionato, è per uso continuativo quello lì. L'ho trovato un'offerta anni fa, ma non me ne sono pentito amaramente, proprio è stato un affarone quello che ho fatto. Che avanti? Chi è? Ciao Giuseppe, buonasera, mi ascolti? Allora Giuseppe, io ti sento Santiago 7, però la voce è un po' disturbata, non ho capito per quale motivo, non so se tu mi ascolti, ho capito che sei dal vero. Vabbè, ciao Giuseppe, buonasera. La voce dovete sentirlo così, perché ha un po' di difficoltà nel parlare, ma è un ragazzino, è giovane, capito? C'è solo 88 anni, quasi 88-89 Giuseppe, è un ragazzino, capito, roba, quindi 88 anni, io conosco le persone, è un tigrotto ancora, è un tigrotto, però ha un po' di difficoltà nel parlare e quindi dovete sentirlo così, dai. Sì, Santiago 8 qua sta arrivando Giuseppe, nessun problema, va benissimo, avanti Roberto. Ah sì, allora ci siamo sentiti altre volte Giuseppe, forse un annetto fa, che avevi chiesto indicazioni per farti un po' di compagnia, cioè per parlare qua sul baracchino. Sì, mi ricordo di te, ben sentito dopo tanto tempo. Ok, segnale tuo è 7 a picchi positivi, non so come mi ascolti a me, ti chiedo conferma di segnale. Non ho capito, quasi una? Bismarck, la corazzata. Anche a me mi dice così. Quindi adesso le corazzate siamo due, Giuseppe. Ah, è vero, le corazzate erano tre. Vabbè, vediamo, se entra qualche altro a Sassari che ti arriva bene. Vuol dire che le corazzate siamo a tre. Vabbè Giuseppe, tieni conto che io e Roberto siamo molto vicini, La zona è molto alta lo stesso per Alghero, quindi ci senti bene lo stesso. Non c'è problema. E vediamo un po' chi è che là. Ah, Capri 2, sì, il microfono per Capri 2. Vediamo se senti a Capri 2 come terza corazzata. Avanti Capri per Giuseppe di Alghero. Giuseppe, l'hai sentito Gianni Capri 2? Vero denaro, infatti non ti sente lui, non lo senti neanche tu. No, non ci arrivi da Giuseppe o Capri. Una zona molto particolare. Però è proprio la zona tra te e lui che è un po' infedele, dai. Mentre invece con Valerio già vi sentite. Ok, cambio per Natalino allora, vai Natalino. Sì, Uia. Sta arrivando più basso Capri 2, perché non lo sento io. Vediamo un po', Giuseppe, come mi ascolti a me? Allora, da me sì, segnale 5 a picchi positivi. Sì, avanti. Sì, Capri 2 non arriva da Giuseppe, l'ho detto, l'unico che ti sente bene è a te, Valerio. Ciao Valerio, buonasera. Sì Valerio, ben sentito, tu sei quasi 9+10 qua, con i picchi arriva 9+10, la radio 5 è ottima, niente da dire. Il segnale di coso, ripeto, quello di Giuseppe è più basso, probabilmente è in una posizione meno favorevole o sicuramente sta utilizzando meno cavalli. Lui è quasi 8, 7 con i picchi a 8. Tu dammi un rapporto di segnale se me lo vuoi dare, se ti viene bene. Ok, Claudio arriverà a 9+10 se non più 15. Eia, ok, stiamo andando bene tutti, dai. Capri lo stesso si fa sentire, anche lui diceva aveva problemi prima, adesso finalmente è riuscito a trovare un passaggio, un varco per Alghero. Luca ti ascolta penso perfettamente, perché riusciva a tirar fuori anche a Giuseppe che è molto basso qua. Ok, avanti Luca per Valerio. No, qua arriva bomba, dai, segnale 9, ciao Valerio. Sì, mi sto impigiamando, sono stanco, dai, da ieri ho dormito fuori, sono rientrato poco fa e sono un po' stanchino, del resto tutto a posto, ho mangiato, bevuto. L'unica cosa che mi manca è riposare, ma rimango un po' qua, poi quando non ce la faccio più vi saluto e spengo tutto. A te il microfono, va. Già ti sento Valerio, già ti sento, non so se mi senti tu, comunque vai, corre ti permette, devo fare cosa qua, là. Ci sentiamo alle prossime, salutoni a tutti. Sì, se non arrivi tu da Alghero, allora chi è che vuoi che arrivi? Già va bene. No, Giuseppe arriva da tutti, tranne che da Capri 2, capito? Non si sentono Natalino ha chiuso. Ciao Natalino, buon potersi e buon tutto. Ciao, ciao Natalino, allora ci aggiorniamo. Alla prossima, vai Luca. Ehi, ciao Natalino, buonanotte, alla prossima. Saluta la concetta, ciao, avanti Robert. No, io ho già salutato. Una domanda, Claudio. Ti ricordi a Carlo, quello di Alghero, che parlavamo, l'amico di Cavallino, quello che c'aveva un laboratorio ad Alghero? Che fine ha fatto lui? Carlo La Parrera? Non si è più sentito neanche in banda amatoriale. Qualche volta quando ero in via Pascoli, 3-4 anni fa, 5 anni fa, lo sentivo qualche volta in VHF, facevamo qualche chiacchierata così, poi è sparito, non so. Ma è vivo, sì, o vale la Parrera? Cavallino è morto, Roberto. È morto? Sì, è deceduto un paio di mesi fa. E di che cosa è morto? Stava male, si è sentito male, è deceduto. Ecco, mi dispiace, era giovane, non è così. 50 rotti anni, 52. Non pensavo fosse più giovane, mi dispiace, dai, era in gamba, dai. E l'altro, come si chiamava? Quell'altro fuori di testa, che... come si chiamava quello di Alghero, lui? Pinangelo. Pinangelo, che fine ha fatto? Mi sa che non c'ha più antenna, Pinangelo, vero? La confermi. Sì, non ce n'è più antenna. L'ho provato a cercare l'Alghero, ma non l'ho trovato. Sono passato un paio di volte a casa sua, suonato, però non c'era nessuno. Capito? Non so che fine ha fatto. So che ne ha tolto tutto, l'antenna, il problema è che c'ha belle radio, c'ha il 440 e il 140. Anzi, no, 140 non ce l'ha più, l'aveva venduto a Daniele, l'ho fatto prendere io. C'è ancora il 440, linea completa, roba. C'ha 440, colonnina, PS50, MC60. È un peccato non usarlo, infatti lo stavo cercando per vedere se voleva venderglielo e farlo fuori, perché se lo tiene così tirerà un po' di serraglio. Non lo so, un peccato. No, a me va di avere troppo. Pinangelo non gliela fottiva nuda se lo ascoltava, lui dice sto uscendo con 100 watt, 4,40, cioè proprio non aveva problemi di paura di per dire che qualcuno gli facesse qualche soffiatina e venisse a casa a cercare, era troppo di lui, poi attaccava anche due mixer con la musichetta, tu ricordi lui? Ehi, solo quello faceva, scongelava anche il pane col fumo. No, era simpatico, dai, in gamba. Anche Carlo, io con quel Carlo avevo fatto belle chiacchierate, era in gamba, l'ho sentito tante volte. E poi non ho più sentito Gianni Vitri, ve lo ricordate? Gianni Giaguaro? No, io l'ho sentito un paio di anni fa, l'anno scorso mi pare. Così era entrato giusto, stava provando una radio a salutarmi e basta. Non so, neanche lui, no? Ma molta gente, vabbè. Alla fine no, siamo rimasti per quattro gatti qua e basta. Meno male ci siamo, giusto per fare due chiacchiere. E quell'altro che partiva tutte le notti di domenica, di sabato notte o di domenica notte, che andava a Obbia, come si chiamava? Luca, come trovi tu? Come in contatto? No, non era Tarzanetto, un altro. A Olbia viaggiava Domenico Tarzanetto, si ha ragione Gianni. L'altro chi era? Non lo so. Ma anche Domenico non è più con la TNT, capito? Quindi non sta più viaggiando come viaggiava prima. La polizia? Roberto va alla sirena dei carabinieri, della polizia, a battere. Se non pone un megafone, quando ci guidemi, fai squillare un telefono e si portano i dubbi. Bobby, mi dà un buon cuoco, levi. Ma se sai che un buon cuoco è buono, invece Natalino un buon cuoco è cattivo. Vai Capri, riprendi. Riecco. Se non mi dici nominativo, ormai questo Franco non mi dice niente, che poi sei amico di Vittorio Giove, poco come riguarda. Siamo i collezionisti che le piace avere la casa piena di radio, ma ora già fatto, proprio appena me la casa di radio. Io un periodo avevo 26 microfoni di tavola, capito? In una vetrina, in un armadietto. Poi ho trovato un collezionista di Milano, li ho dati tutti. E mi ha mandato un HF, figurati tu. Poi io avevo iniziato con i baracchini, c'avevo la casa piena di baracchini vintage, già lo sai, e ce li ho tutti pronti fuori. No, sono... è un capitale morto, ma cosa ne fai? Però la casa riempirsi di polvere, devi stare ogni volta, li dovevo tutti togliere, pulire, spolverare, c'era la lana sotto la radio, no. lascia perdere. Oh, e chi tu, Pinocchetto il Moro, che fine ha fatto? Pinocchetto il Moro c'era anche l'altro giorno, Pinocchetto già lo sentiamo spesso. No, vabbè, io sono da parecchio che non è, ma tante persone che non ho più sentito, vabbè, sento solo a voi ogni tanto. Questo è il canale dove entrano quelle poche persone, sempre stesse, insomma, io, Luca, Gianni, Capri 2, Gianni Opiolume, Natalino, Marco. Qualche volta il genio Apportolo, Gianfranco Lassorso, ma siamo sempre qua sul canale 10, poi nel canale 23 adesso si sono spostati, prima erano il 20, ci sono sempre quelle due o tre persone che chiacchierano per i fatti loro, ma niente di che. È più trafficato questo, vai Giulio, entra qua, capito? Tutto qui. Oh Marco Condor, vuoi parlare o vuoi stare zitto? Scusate, mi sono fatto qua un pediluvio di acqua calda, sono in estasi, quindi ho le endorfine in atto, capito? Ero una te ne dico, non ti perdi niente. E cosa? Radio Max, c'è la bella radio lo stesso. Ah oh, boh, quello devi dire anche alla volta pompa. E lui ci va spesso, ma io non so più se abita lì, se si era spostato, se si aveva venduto tutto, perché aveva tolto anche l'antenna, gliel'avevano fatta togliere, non so com'era andata. Eh beh sì, Mario c'aveva un po' di roba interessante, poi non lo so che fine ha fatto. Io parlo di quelli che ci stavano spesso, sì, gente c'era, roba, c'era sempre più gente di adesso sicuramente, però adesso siamo queste persone, poche persone, due chiacchiere, e si tira a campare, cosa devi fare? Valerio, la verità è che non è che ti stavano fischiando le orecchie perché sensori non ne hai, poi non sei neanche orecchione, quindi non ti possono fischiare, capito? Sei all'ascolto perché stai sempre lì ascoltando, capito? Hai sentito il tuo nome e sei entrato, va bene, ci ha fatto piacere, va? Comunque non appartieni tu agli orecchioni, capito? Gli orecchioni già lo so io quali sono. Ehi, aia, certe volte mi piace anche più ascoltare che non parlare, dipende se me la sento, dai. Comunque oggi sono stato graziato, capito, dalla carabiniera, perché dovevo fare roba in campagna e quindi oggi giornata di pausa, c'ho la voce rauca, quindi mi sono potuto rilassare tutto il giorno, ma domani riprende la prigionia. Ciao Vale, ciao! Ciao Vale, ben sentito alle prossimine, vai Natalino. Non c'è Natalino, ricoglionito, vai Gianni Capri 2, se c'ho lì come io, ce l'ho 756, una gaggata che non viene bene a dirlo, ho provato in tutte le maniere, col menu a regolare, a fare, con l'SM20, una radio da schifo, un peccato, veramente lì c'ho l'amplificatore collegato, perché c'è l'amplificatore HF collegato che è una cannonata, ma non lo uso perché fa schifo la radio, capite? Preferisco usare sempre il 30 e il 40, è un'altra cosa, non c'è niente da fare. Avanti, Lucaria, vuoi riprendere? Stai facendo cosa? Ma Giuseppe c'è ancora? Sì, se non è andato a mangiare, ma lui a quest'ora disturba la TV. Giuseppe, vuoi riprendere? Ah, è assente tuo nipote, quindi non hai rotture di scatole. Attento, allora, quando senti i tacchi sopra di te, stacca subito il microfono, perché sennò già lo sai, ti prende a battonate. Ma come mai? Scusami un attimino, Giuseppe, che apparecchio stai utilizzando? Sto usando un Telsat SSB50, base, 220, però non è quello il problema, lui può usare qualsiasi cosa. C'ha l'antenna attaccata allo stesso tubo dove c'ha l'antenna TV, capito? E quindi disturba, è troppo, è così, e l'impianto è quello, non può farci niente. Cacchio, clacchio, io l'antenna mia TV sarà in linea d'aria, sarà 3 metri, forse neanche, all'antenna della televisione, cioè del baracchino, la Mantova, è molto più in alto, è a 10 metri di altezza diversa, ma sono una attaccata all'altra. Ma io, grazie a Dio, con nessuna radio ho mai avuto problemi di linea, mai, nessuno mi ha mai detto niente. Sono Claudio. Se per questo neanche a me, però il suo problema è diverso, ok? Tubo, palo, antenna TV in punta dove c'è l'antenna TV, a 20 cm, 30 cm dall'antenna TV c'è l'antenna del baracchino. Unico palo. Ok, aspettate, forse una telefonata, non so. Eia, riprendi Marco. Eia, io lo stesso, però certo non a 30 cm, io ho il palo, che c'è dal gabbiotto di 2 metri, in punta c'è l'antenna del baracchino, quindi a mezza altezza tra tetto gabbiotto, punta a palo c'è l'antenna TV, ma TV è zero, ma anche attaccato, anche con lineare, è una cosa mai vista. Beh, d'altronde l'antenna irradia in orizzontale, cioè non in verticale dove c'è l'antenna TV, no. E tu mi dici, ma il campo elettromagnetico c'è sempre lì, sono stato fortunato io. Lo so, ma lui rimpiante così, ma disturba il suo televisore, non quello degli altri, disturba il suo televisore. Il suo è quello della nipote, praticamente, che ce l'ha sopra casa sua, perché l'antenna è unica, capito? E poi dipende come è messa l'antenna, la scatoletta, il cavo. Dipende anche che ricevitore è. Che io sono pienamente convinto che certi decoder prendano più colpi di altri, come erano i baracchini una volta. E va bene, dai. Comunque mi ha fatto bene questo pediluvio, come lo vuoi chiamare. È proprio, sai, quella sensazione di benessere, di estasi quasi. Mi sono perso, pensa, anche il telegiornale che volevo vedere, pazienza, tanto mi pare che c'era il Papa come prima notizia, che ha fatto un mega pranzo per i poveri. E fin lì tutto bene, ma poi a parte il pranzo i poveri torneranno a essere poveri e basta, capito? Non è che vanno a mangiare tutti i giorni dal Papa, no? Vabbè, però già sono cose belle quelle, dai. Va bene, che va bene. Capri, riprendi? Vendiglielo a Capri, mi. E cosa? Il 7-5... Come si chiama di nominativo? Il 7-8 Japan Foxtrot America. Lo lasci pure, non lo so, lo lasci pure. Io con Franco, Franco... Quello anziano era morto, qualche altro Franco ci ho parlato, però bisogna, devo vedere il log se c'è, ora si pure ci abbia parlato qualche volta, però così adesso non te lo so dire, il nominativo non mi è nuovo, però devo vedere con certezza se ce l'ho al log ci ho parlato, se no magari ci avrò parlato e non l'ho messo manco al log, capito? Se lo cali così non è che mi scrivevo molto di niente, poco mi interessava, era giusto così per fare un saluto. Non sono Montanari. No, quello è di Firenze. Ehi, allora no, Montanari di Lucca, esattamente di Lucca, invece questo qua è di Cosenza, mamma è nata a Castrovillari, provincia di Cosenza, mio. Un paesano di mamma sarà. Sì, ricordati, quello Montanari, il farabutto, quelli di Lucca, e comunque già ce l'hanno segnata in molti, Claudio, avrà perso un bel clienti per il suo modo di fare. A Gianni, per esempio, a Doppio Room gli avevo venduto un Alan 48 e non li ha mai spedito né la garanzia né lo scontrino, quindi è come che fosse privo di garanzia quell'apparato. E gli aveva chiesto di mandarlo per lettera, una lettera con lo scontrino, sì, domani, non l'ha mai avuto con lo scontrino. Purtroppo non cambia, come venditore si è dimostrato molto scorretto con molte persone, con te pure, mi pare a riguardo di una scheda audio bruciata, vero Claudio? Allora, hanno mandato 850 fiammante dentro la scatola, bellissima radio, allora ad accenderla, muoveva lo smitter, sentivo, cioè si vedeva che stavamo parlando, non sentivo nulla, ma non è che non ero pratico, sollevavo il volume, niente, controllavo, niente, uscivo, lo riaccendevo, niente da fare, nulla da fare, e una domenica mattina me lo sono messo in macchina, l'ho portato da Carlo, Chiaramonti. Ho detto, ma guarda questa cosa, così e così mi hanno mandato, esatto, si sa vivere, attacca, ma neanche con la scheda, con la, io con l'autoparlante esterno, perché io non ne avevo l'autoparlante esterno, l'aveva provato anche lui con l'autoparlante esterno, niente, ma che per l'aria bassa, che la bruciava, audio, come? Sì, ah, la scheda audio bruciata. L'ho telefonato, guarda che l'ho testata prima di mandarla, tu sei un grandissimo farabutto, perché mi hai mandato la scheda, la radio con la scheda audio bruciata, capite? Ma può essere che tu le hai messo una colonnina amplificata esterna, ma con chi stai parlando? Io non stai parlando l'ultimo arrivato, mi hai capito? Sarai molto più grande di me, forse, non lo so, perché sembra che ne abbia 80, ma forse ne avrà 60 di anni, capito? Però gli ho detto, quando usavo le radio io da pirata, tu forse neanche sapevi cosa erano le radio, quindi non me ne dia un FSI, ti sto mandando la radio indietro. Ma non ci dobbiamo mettere niente d'accordo, mi devi mandare la radio funzionante, se no io vengo di persona e te ne culo a capo, a giudizio, a me se me l'ha messo a posto. Per carità, sì, è un vigliacco. Vigliacco anche come nel modo di fare, capito? Come ha fatto a me col baracchino, tanti altri, eccetera. Va bene, io vado adesso comunque, Claudio, dai, non voglio stare al baracchino, dai, cioè ormai è tardi, dai. Non voglio di attaccarmi alla TV, dai. Vediamo se è entrato Roberto e vi saluto io, dai, Roberto. Sì, sono entrato adesso, ok, allora io ti saluto, dai. Mi hai sentito, Marco, alle prossimine. Buon tutto e buona giornata per domani. Ehi, Roberto. Oh, Claudio, non c'eri là, no? Non hai sentito la battuta che ho fatto al monitor, no? No, è spenta, porca, amici. È sempre tu a la radio. Mi dimentico, Marco, di accenderla, che mi lascia accesa. No, non ti ho sentito, Marco. Era una cosa che ha detto Roberto, no? Che c'era quell'amico di Alghero che non temeva di dire c'ho un Kenwood 100 watt, e io ho fatto la battuta, sono il LPD, c'ho uno Yaesu 8008, 35 watt, antenna esterna. Non affrutterò mai, no, ma lì già va bene così, dove siamo noi va benissimo così, perlomeno io ci sto molto meglio lì, capito? Cioè che ero più tranquillo rispetto all'altra, però mi dimentico sempre di accenderla, a volte ce l'ho accesa, a volte mi dimentico. Va bene, ciao Marco, allora buona serata, buon fine domenica, buon tutto, saluto a casa, fatti sentire. A proposito, a che punto siete con i lavori? Sì, ce n'è da fare ancora, mamma mia, poi abbiamo scoperto che la mia stufa personale si è rovinata a causa della mia incuria, la stufa a gas, da buttare, l'ho distrutta, in 2 o 3 anni l'ho distrutta, colpa mia, me la ricomprerò a spese mie, dai, per non pesare sul bilancio familiare. Va bene, dai, ciao a tutti, ciao. Vendili, ho detto il 756, o come si chiama, HP2. Già lo fa funzionare lui. Ciao a tutti, ciao. No, quello non si tocca. Quello mio gioiellino HF funziona molto bene. 756, va alla grande, va. Venduto l'altro Yaesu che avevo, mi sono tenuto quello, figurati. Sono molto affezionato a quella vecchia. Va bene, ciao, buona serata, buon tutto, alle prossime. Avanti Capri. Lo sai che me l'hanno detto anche a me, però io con Negrini non ho mai, una volta, ma tanti anni fa avevo comprato un veicolare della Linco, però poi non è che ho avuto grandi contatti, io trattavo molto con Alfredo, con Irae, basta. Qualcosa ordinavo anche da altre ditte, ma il rapporto insomma ce l'avevo sempre con Alfredo, che poi ha chiuso anche lui da quando aveva morta la moglie, eccetera, capito? Non quello che mi hai detto tu, Irae 2, Alfredo Irae, che era una bellissima ditta, una persona veramente in gamba, perlomeno con me si è sempre comportato bene, non abbiamo mai avuto problemi. Però con Negrini ti ripeto, niente di che, non lo so, tu non sai niente di questo Negrini ha detto. ho sentito parlare tanto tempo fa, ma sinceramente non sono in contatto. Ho sentito che Bianconi vuole chiudere, ho visto un forum, stavano parlando su Facebook, proprio dice insomma, è già grande, cioè, è grande come Bianconi, non pensavo fosse così grande. Chi ha letto sì Bianconi? Carlone, è molto bravo, è l'unico che insomma ancora oggi si dà da fare con queste radio, con queste cose. Però anche lui, l'ultima volta me l'aveva detto anche a me, quando l'avevo mandato sul 430, mi ha detto che appunto aveva intenzione di mollare perché non, sai, sta già iniziando a mancare la vita, mi aveva detto, e laboratorio già manca qualcosa di, degli aggiornamenti, di apparecchiature più sofisticate, insomma, e dice non ne vale più la pena, il mercato è quello che è, perciò insomma. Già si era fatta di Dinamo, ti preoccupare. Lo sai che ho conosciuto Claia? A chi? Daniele Frignani, il capo della Magnum, il progettista, un ingegnere con le palle quadrate, che penso nel mondo ce ne siano pochi, ma pochi che abbiano le qualità sue. Quello che costruisce tutti gli impianti della Magnum, gli accordatori, gli amplificatori, c'ha brevetti di tutto il mondo. Una ditta americana, infatti ci ho parlato, le ho fatto, ho visto il suo accordatore, l'MT3000, ho detto, l'ho visto, uguale elettrico negli Stati Uniti. Certo, gli ho dato il brevetto io, lo fanno col nome, con marchiato, non mi ricordo, un marchio famosissimo americano, ma non mi ricordo come cacchio si chiama. E lui adesso sta aprendo una fabbrica in Bulgaria. Oh, ma quello attrattivo l'hai messo a posto, sì. L'ho messo a posto Brazzito, Ruspa, l'amico nostro, però vuole taratto, devo sempre prendere quello di quell'altro amico mio, di Giovanni, quello, ma hai capito che sto dicendo, quell'altro radioamatore, deve portarmi, mi ha detto, quando vuoi lo prendiamo, perché vuole taratto, diciamo, per non stare a perdere tempo, lui mi ha detto come fare, me l'ha spiegato, me l'ha scritto, però se prendo l'altro, per dire, faccio prima, attacco l'apparecchio, il 440, do potenza e faccio le regolazioni in base a quello là. A me non ti conveniva la tarara del carico fittizio, non lo so, tu mi hai messo a posto, è un bello strumento la Magnum, fa belle cose la Magnum, sì. Vabbè raga, sono le 9:25, io vi saluto, vi ringrazio per il questionario, grazie a tutti, buon fine domenica, saluto Luca, Roberto, Natalino se ancora l'ascolto, Marco se ancora l'ascolto, Gianni Capridue, Giuseppe D'Alghero, Valerione che sta pappando la bocca piena, ti vedo, rilassati perché ti può venire qualcosa, stai attento, stai mangiando troppo in fretta, un saluto circolare a tutti, anche quelli che sono ascolto, do il cambio a Gianni Capridue, ascolto finale, poi chiudo che è pronta la pappa, ciao a tutti, buon fine domenica. Ok, grazie, ci sentiamo, buon tutto, buon corretti e buona giornata per domani, vediamo chi è rimasto, se c'è Luca prima o sono fragilato. Vabbè, io sono qua in ascolto, non ascolto, adesso chiuso, tanto tra un po', devo aspettare a fare la puntolina a mia madre e poi a letto, dai, vi saluto pure io, ci sentiamo domani, buonanotte a tutti. Ciao Luca, ciao anche Gianni Capri, vediamo se c'è Giuseppe ancora avanti. Oh, Roberto. Ci arriva Marco. Ecco, Giuseppe, quanto ti arriva per curiosità? Sarete a voto quasi. Tu sei più favorevole, più in alto. No, qua 5 modulato sì. Non è che sia cambiato, perché Claudio prima mi pare che abbia detto che è salito di segnale, ma qua non è salito niente. Credo che avesse migliorato sostanzialmente Giuseppe, invece alla fine non lo sento, e lo sento perché lo sento, però più di sì non ce la fa ad arrivare, sarà l'antenna, non lo so io. Vabbè, Giuseppe, un saluto da parte di Marco, ti sento sempre, però speravo che avessi migliorato il segnale. Vabbè, dai, era una curiosità mia, dai. Ciao a tutti, buona cena. Ciao Marco, ben sentito, ciao. Mi sa che chiudo anch'io Giuseppe, mi dispiace abbandonarti, mi sa che non c'è più nessuno, dai. Ciao a tutti gli eventuali amici in ascolto che sono rimasti ascoltando, non lo so se c'è qualcuno. Ciao Giuseppe, ciao, buona serata, buon proseguo. QRT da parte mia.